9 in punto, la versione di Oscar. Oh, how elaborate flies the end of everything that stands the end. No safety or surprise the end. Ed eccoci ancora una volta con le note che ormai mi accompagnano fedelmente dei Doors, The End, a questo giovedì 29 dicembre del 2011, una puntata che dedichiamo all'attesa di conoscere. A fine mattinata la conferenza stampa ci sarà alle 12 da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, il professore senatore Vitamonti, che illustrerà le misure assunte dal Consiglio dei Ministri ieri e che pensiamo di commentare questa mattina, ma abbiamo deciso di tenere la puntata comunque su questo, cioè sulla fase 2, sulle misure necessarie ad accrescere la produttività e a innalzare il prodotto potenziale del nostro paese, perché è questa la vera sfida che sta di fronte a noi. Per troppi mesi, troppi anni abbiamo concentrato il bombardamento mediatico e le riflessioni con la politica esclusivamente su uno dei due versanti sul quale l'esame dei mercati è giustamente implacabile nei confronti dell'Italia, e quel versante è quello della finanza pubblica e quello della necessità di accelerare l'azzeramento del deficit. Per questo si sono accumulate 4 manovre nel corso del 2011, tagliando spesa, e purtroppo poi anche la via che è stata seguita è stata quella prioritariamente di alzare le tasse. Come è noto, io sono di un'idea diversa, ma quello è un versante, quello del rigore della finanza pubblica. Ma non c'è rigore di finanza pubblica soprattutto quando poi, attraverso il canale dell'incorporazione del rischio paese nel sistema del credito, attraverso il canale del credito economia reale, quando in quel canale si accumula un deterioramento così rapido della crescita del nostro paese come dell'intera euroarea, allora bisogna ricordare che oltre al regole della finanza pubblica c'è un secondo pilastro altrettanto essenziale rispetto al primo, è quello della crescita. Noi cresciamo da 15 anni meno di tutti i nostri partner, abbiamo problemi complessivi di bassa produttività multifattoriale, perché abbiamo una bassa rendita del capitale finanziario dovuta ai sovraccosti energetici, di trasporto, infrastrutturali, logistici. Abbiamo una minor resa del capitale umano per la formazione incorporata, anche se abbiamo scelto dal 2001 in avanti di diminuire la nostra disoccupazione, e per anni è andata bene così, accrescendo il numero di posti di lavoro, però accrescendo il numero di posti di lavoro a bassa produttività. E quindi abbiamo un problema di fondo che va affrontato con una molteplicità di misure. Ora, il Consiglio dei Ministri ieri ha avviato esattamente questa che si chiama fase 2, ma il Presidente del Consiglio, con un po' di astuzia mediatica, ha deciso di invitare al silenzio i suoi ministri, perché c'è la conferenza stampa di fine anno, e quindi la conferenza stampa di fine anno alle 12 ci farà capire che cosa il governo ci riserva. In realtà abbiamo capito già dall'avvio del dibattito sulla riforma del mercato del lavoro nelle scorse settimane dopo l'approvazione della manovra, quello è uno dei pilastri, e deve essere piaciuto poco, credo, al Presidente del Consiglio l'eccesso di enfasi e di reazioni dure che si è avuto di fronte alla prima uscita su questo del Ministro Fornero, che poi ha dovuto correggersi, ha dovuto dire che è stata ingenua, che l'articolo 18 non voleva trasmettere l'idea di essere pronto a modificarlo senza sentire le parti sociali. Comunque, sicuramente il lavoro, sicuramente sappiamo dal Ministro Corrado Passera che l'accelerazione delle infrastrutture è una delle sue priorità, e ha portato già al CIPE una serie di tentativi di sblocco complessivi di opere, chiarendo che il problema di fondo per l'orizzonte di finanza pubblica del nostro paese è quello di rimuovere il più degli ostacoli che sarà possibile, che impediscono però ai privati, alle imprese e alle banche italiane e internazionali di finanziare esse opere infrastrutturali in project finance, e sappiamo quali sono gli ostacoli da rimuovere, perché sono stati a lungo individuati da chi si occupa tecnicamente di questa questione. Significa diminuire per esempio il tempo e la possibilità di impugnative di fronte ai progetti esecutivi, significa progetti esecutivi le cui varianti e quindi le cui addizionali di costo non siano infinite come capita da noi, significa uno smaltimento e una riforma del processo di consultazione delle istanze locali quando si tratta di avere un'opera infrastrutturale simile per esempio al modello francese, che unisce insieme la facoltà di interagire ma con tempi così certi che se salti una sola tappa dello scadenziario pubblico non puoi più impugnare e protestare o chiedere per esempio oneri paralleli da finanziare se dici sì o no a una certa opera. Insomma, sappiamo quali sono tutte queste cose, solo che la fila delle cose da modificare è improba, per così dire, e non è detto poi che la pubblica amministrazione sia proprio pronta e scattante nell'attuare tutto ciò che serve per portare più capitale privato alle infrastrutture. Un terzo capitolo, anche questo lo abbiamo capito, è quello delle liberalizzazioni e delle aperture al mercato di vasti settori dell'economia italiana che ne sono stati fin qui o inibiti o solo parzialmente sfiorati. Abbiamo iniziato qualche giorno fa a parlare del problema dei tassisti. Sapete che c'è un problema delle professioni. Sapete che c'è un dibattito anche qui, perché si dice sì, però se ci limitiamo alle solite temi delle lenzuolate, temi non centrali, e lasciamo per esempio da parte la concorrenza bancaria o l'approfondimento di quella energetica, commettiamo un errore, perché ce la prendiamo sicuramente con interessi più o meno protetti ma che non sono il punto di fondo dell'output potenziale del nostro paese. Anche questo è vero e dovremo capire. Allora, tenteremo di capire tutto questo oggi con due ospiti che ai quali chiedere cose diverse, per così dire, perché il primo è un componente del governo, è una persona che io conosco e stimo da anni, è sottosegretario all'economia nell'attuale compagine di governo guidata dal professor Monti, insegna economia dei mercati monetari e finanziari all'Università La Tuscia di Viterbo e insegna politica economica e finanziaria all'Università di Napoli, la Federico II, e Gianfranco Polillo. Io lo ringrazio di essere con noi, buongiorno. Ed è anche con noi il professor Gustavo Piga, che insegna economia politica all'Università degli Studi di Roma e Tor Vergata. Avete probabilmente letto o ascoltato ai telegiornali e giornali radio in questi giorni l'appello che ha sottoscritto insieme a numerosi altri economisti italiani il professor Piga, che chiederemo poi di illustrarci, ed è un appello nel quale si dice stiamo attenti, perché con il solo rigore con i cui effetti sono deflazionistici noi ci compromettiamo ulteriormente la possibilità di crescita, andremo a una recessione troppo dura, bisogna che il governo Monti si faccia sentire in Europa, perché nello stesso accordo europeo ci sono tutti gli estremi e le possibilità per impedire che la scelta del solo rigore ci porti a sbattere il naso ancora peggio, anche perché col solo rigore quando si deprime il PIL non si raggiungono neanche gli obiettivi di azzeramento del deficit per cui abbiamo fatto le quattro manovre una dietro l'altro. Quindi grazie anche al professor Gustavo Piga, buongiorno. No, grazie a lei. Allora Polillo, innanzitutto, senza voler pregiudicare il fatto che sarà presente del Consiglio a dirci tra due ore, ma in realtà lo schema del governo per quello che riguarda la crescita dell'output potenziale è uno schema che è stato dichiarato, vedremo le misure, ma in realtà rispetto a prima, quando la crescita era una questione che veniva risolta di solito dicendo non è coi decreti che si fa la crescita, che cos'è cambiato nei presupposti di questo governo? Che cosa c'è rispetto all'accrescimento della crescita del paese? Ma innanzitutto buongiorno a tutti di nuovo, grazie di avermi chiamato. Che c'è di diverso? Io voglio citare, tanto per dimostrare che c'è anche una certa linea di continuità con il precedente governo, l'incipit della relazione fatta in Inghilterra sulla spending review da parte di un'authority appositamente costituita, in cui si dice è vero, i governi non possono determinare la crescita di un determinato paese, perché la crescita di un determinato paese risponde a fattori molto più complessi, però possono determinare i presupposti affinché questa crescita abbia maggiore portata e maggiore rilevanza. Direi che forse il cambiamento è tutto qui, nel senso che noi il precedente governo ha fatto un'opera meritoria nel tentativo di contenere e di inserire elementi di rigore nella nella gestione della finanza pubblica, risolvendo seppure parzialmente problemi annosi che ci trasciniamo da molto tempo. Se una critica, sarebbe comunque una critica ingenerosa, va rivolta, è che sul fronte, sulla frontiera della crescita, invece il precedente governo è stato molto titubante. Ed è stato titubante soprattutto, come dicevi tu in precedenza, sul fatto che non siamo riusciti a contenere la spesa pubblica come volevamo. Noi abbiamo avuto 10 anni per fare una spending review degna di questo nome, cioè di andare a vedere nella grande pancia della finanza pubblica quali sono le leggi da cambiare, da modificare, da abrogare. Io ho fatto un rapido calcolo: sul bilancio dello Stato incidono 25.000 autorizzazioni di spese, che sono frutto di una stratificazione legislativa di parecchi decenni. Allora, credo che in 10 anni si poteva cominciare a verificare puntualmente, una per una, se queste autorizzazioni di spesa erano ancora così necessarie, se si potevano modificare, e darne contezza di questo al Paese. Noi probabilmente finanziamo delle cose incredibili ancora, di cui non c'è consapevolezza collettiva. Questo avviene perché è avvenuta la spending review, non si è fatta perché le resistenze, specialmente della burocrazia, sono fortissime, perché naturalmente se non si conosce non si è nemmeno in grado di operare per modificare situazioni pregresse. Vi sono degli episodi che mi hanno raccontato che quando si va a discutere, la ragioneria va a discutere molte volte con i ministeri di spesa e gli proponeva tagli in determinati settori, la risposta era: va bene, allora io taglio i servizi pubblici essenziali, che era un modo come di dire lascia fare, non intervenire per quanto riguarda la gestione finanziaria che mi riguarda, perché altrimenti io faccio ricadere su di te tutta una serie di conseguenze di natura prevalentemente di carattere sociale. La spending review serve invece per dire, avere questo quadro di carattere generale, per aumentare il potere contrattuale dell'apparato centrale, cioè della ragioneria generale dello Stato. Quando si va a discutere con i singoli ministeri di spesa e quelli ci dicono non abbiamo nulla da tagliare, uno deve andare lì con un elenco di leggi, dice: allora perché questa, qual è il valore di questa legge, perché questa disposizione, ecco, questo insomma è il processo che è mancato in tutti questi anni, perché si è preferito, di fronte alle difficoltà burocratiche, alle resistenze opposte, di procedere con i famosi tagli lineari, che nella logica teorica erano quelli proposti anche lì da Gordon Brown. Si diceva: va bene, io ti do un target, ti do la possibilità di modificare i capitoli di bilancio come tu vuoi, però mi devi assicurare un taglio di spesa del 10%. Purtroppo non ci siamo riusciti, non abbiamo ottenuto grandi risultati. E quindi bisogna passare da quella fase a questa, perché il presupposto della riduzione della spesa pubblica è il primo contributo che un governo, come si diceva appunto, diceva all'inizio nella relazione della spending review fatta dal governo inglese, per creare le condizioni per alimentare la crescita, perché se noi otteniamo dei risparmi possiamo arrivare ad una rapida riduzione dell'imposizione fiscale, che deve essere accompagnata, ma su questo frontiera siamo molto più avanti, su una lotta più decisa nei confronti dell'evasione fiscale. Noi l'altro anno abbiamo avuto un recupero di evasione pari a 23 miliardi. Questi dati di quest'anno ci dicono che forse supereremo quella cifra. Quindi abbiamo messo in piedi un apparato potente che nel tempo possa contenere questo eccesso di aria di evasione fiscale. Non dimentichiamo che un'evasione fiscale è in qualche modo fisiologica in tutti i paesi, mentre in Italia è il doppio se non il triplo della media europea. Ecco, questo è l'elemento un po' che è cambiato, cioè trovare risorse per cercare di accelerare la crescita del nostro paese. Poi su come farlo ce lo dirà il Presidente alle 12. Intanto vediamo in mattinata cosa succede sull'asta. Molti ascoltatori ieri hanno chiesto interpretazioni e continuano a chiedere sul fatto: ma come avevate detto fatto che il fenomeno degli spread, cioè il fatto che il mercato avesse un giudizio di fondata sfiducia sulla efficacia del compromesso della notte dell'8 dicembre assunto in sede europea per dare una risposta a strumenti cooperativi adeguatamente finanziati in grado di sostenere il debito degli europaesi a rischio ci avrebbe accompagnato. Invece questa asta ieri dei BTP a breve va benissimo con abbattimenti quasi di 3 punti percentuali pieni dei rendimenti. Allora io dico agli ascoltatori, attenti che noi abbiamo attraversato 4 fasi diverse negli ultimi 2 anni di segnalazioni dei mercati di sfiducia sulla tenuta dell'euro. Prima lunga fase durata 1 anno e mezzo, ci si è concentrati sui paesi euro periferici deboli, quindi Grecia innanzitutto, ma poi Portogallo, Irlanda, Spagna. Poi una fase che da inizio luglio, agosto, settembre arriva allo spread massimo italiano, in cui ci si concentra su un paese Eurocore, questa volta fondatore, centrale, se salta lui salta l'euro, debole come l'Italia. Poi terza fase ancora più rapida, il segnale si sposta invece, quindi gli spread iniziano a differenziarsi rispetto ai premi a rischio tedeschi per paesi Eurocore forti o almeno considerati forti fino a quel momento, cioè Francia, Olanda, Austria, come a dire l'euro, oramai la crisi dell'euro tocca tutti anche. Ultima fase, quarta fase, quella precedente di 3 settimane prima dell'euroaccordo del 8 dicembre, rottura della curva temporale, cioè il massimo degli spread si trasferisce dai titoli decennali rispetto ai bund tedeschi ai titoli a più breve, cioè a quelli fino a 2 anni, 6 mesi, 2 anni, che vuol dire il mercato ci trasmette l'idea l'euro non regge oramai a brevissimo nel 2012. L'asta di ieri sui titoli italiani incorpora fattori diversi. Primo, la valutazione che è stata positiva, non ovviamente positiva, sede europea, sede fondo monetario e così via, sulla manovra italiana. Secondo, il fatto che dopo l'asta della BCE, asta triennale di liquidità con collaterali molto estesi, sono tornati sul mercato soggetti istituzionali che prima mancavano negli ultimi mesi dal mercato delle aste, e anche qualche fondo monetario americano si è visto, perché i money maker americani sul debito sovrano erano spariti da mesi e facevano altro che vendere. Terza cosa, vediamo come va oggi l'asta invece sui BTP, perché se fosse confermato, come è l'attesa del mercato, che si torna a spostare su rendimenti che restano molto elevati ma sul lungo termine rispetto al breve, vuol dire che il mercato ha capito che con l'accordo dell'8 dicembre si compra tempo, per così dire. Ma se dovesse continuare a dirci che i rendimenti restano molto elevati sul decennale, dice comunque nel medio lungo periodo questo accordo non regge. Questa è un tentativo di interpretazione del fatto che ieri i rendimenti sono scesi di 300 punti base sui 6 mesi, anche perché stamattina lo spread prima dell'inizio dell'asta era inchiodato a 515 punti aspettando l'asta, quindi il rendimento era al 7,03% sul decennale, non incorporava affatto quindi un abbattimento di 300 punti base come è avvenuto ieri. Professor Piga, lei sostiene che bisognerebbe appunto aggiungerci un pezzo a questo euroaccordo dell'8 dicembre, perché così andiamo a sbattere, cioè il meccanismo che ha sostituito il giudizio dei mercati quotidiani a quello del discrezionale dell'Ecofin e del Consiglio europeo sui criteri di Maastricht è un giudizio che, se lo applichiamo solo alla finanza pubblica, ci avvita e che obbliga a quel punto i paesi meno in regola con la finanza pubblica e con la produttività ad accrescere ulteriormente magari la propria posizione difficile in bilancio dei pagamenti per quello che riguarda l'economia reale, e a mancare a quel punto anche agli obiettivi di rientro della finanza pubblica. E quale parte, diciamo così, delle norme europee consentirebbe di fare più crescita senza per questo manomettere questo edificio di rigore che tutti i paesi tranne la Gran Bretagna dell'Unione Europea hanno detto di condividere, al suo giudizio? Allora, mi permetta di iniziare correggendola. Credo che i mercati, o perlomeno l'Italia, abbia bisogno che si levi da questa nuova normativa europea. Oggi il governo italiano credo che invierà, anche se noi cittadini ne sappiamo molto poco purtroppo di questo, le sue proposte di emendamento alla proposta di trattato, di cui noi cittadini anche sappiamo molto poco perché non sono circolate versioni, ma per fortuna la stampa un minimo se n'è occupata, e pare che dentro il trattato europeo ci sia l'ennesima follia. Cioè l'articolo 4, che diventa, io ricordo, questa parte di trattato dovrebbe diventare, se riusciamo a fregare i giuristi inglesi che sono pronti a filare i coltelli per dire che questo non può essere scritto in forma di trattato, noi ci apprestiamo ad approvare un articolo 4, non so se adesso è cambiato, ma l'unica versione che ho visto di tanti giorni fa era l'articolo 4, che prevede che ogni paese che ha un debito pubblico PIL superiore al 60%, e ovviamente noi siamo uno di questi, deve ridurre ogni anno la differenza al 60%, quindi se noi siamo a 120 la differenza è il 60%, quindi ogni anno deve ridurre il debito pubblico PIL di un ventesimo. Quindi in questo momento noi stiamo per mandare a Bruxelles, io non so cosa sta per dire il governo su questo articolo 4, ma ci troveremo dal 2014… Di un ventesimo dell'eccesso rispetto al 60. Non del... Che vuol dire 3%. Esatto. Allora lei calcoli, il povero presidente Monti o chiunque verrà dopo di lui, se verrà qualcun altro nel 2014, che debba non soltanto raggiungere in queste condizioni il pareggio di bilancio, ma deve per di più ogni anno inventarsi un modo per ridurre il rapporto debito pubblico PIL del 3%. Si può fare in due modi: o facendo di corsa, come purtroppo abbiamo fatto negli anni 90, privatizzazioni senza liberalizzazioni, svendendo il patrimonio pubblico e quindi rendendo le lobby delle rendite ancora più forti e contrarie alle liberalizzazioni, oppure si fa di nuovo un aumento del surplus primario, che stiamo parlando di circa 5% a questo punto. Mi dirà, il 5% l'abbiamo fatto anche negli anni, metà anni 90, vero, ma non in una condizione di recessione di questo tipo. Quindi il trattato non va. Io spero che il governo italiano su questa clausola si batta in maniera forte. Si deve battere in maniera tanto più forte. Aspetti, la interrompo solo per fare un inciso. Mi auguro anch'io che intorno al tavolo tecnico che è cominciato inizio settimana, noi abbiamo dato solo l'annuncio dell'inizio del tavolo tecnico, ci sia davvero una informazione migliore, perché per il momento la cortina di opacità è fortissima e non capisco come, perché sia giusto o condivisibile una cortina di opacità intorno a regole che hanno un impatto così forte sulla vita di quasi 300 milioni di europei. Uno. Due. Sugli avanzi primari come via per abbattere il debito pubblico, soprattutto quando sono realizzato attraverso la stretta fiscale, i cui presupposti di sconfitta politica ci ha appena raccontato Gianfranco Polillo, io sono completamente d'accordo con lei. Mi chiedo però se non ci sia un vincolo forte all'abbattimento del debito, come l'Italia riesca a perseguirlo. Io penso che si può abbattere di 20-30 punti per esempio col mattone di Stato. Detto questo, se non c'è una prospettiva di abbattimento del debito pubblico italiano, noi continuiamo a pensare che basterà che lo comprino più gli italiani come hanno fatto i giapponesi e possiamo continuare a veleggiare con debiti pubblici molto elevati, perché di fondo la politica italiana di questo è rimasta impregnata negli anni, anche nei 10 anni dell'euro prima, ma anche nei 10 anni dell'euro, o no, professor Piga? No. Direi che il problema, no, qual è la nostra priorità? In questo momento la priorità l'ha detta chiaramente con un bellissimo articolo oggi in prima pagina su Repubblica il nostro Presidente della Repubblica. Il nostro Presidente ha capito benissimo che il dramma che viviamo in questo momento è il rischio della fine dell'area dell'euro, chiedendo un salto di leadership. E quindi dobbiamo capire come si salva l'euro, non come si riduce il debito. Il debito pubblico su PIL non è il problema degli spread di cui temono i mercati. La Spagna, che ha la metà del debito pubblico, esattamente vicina a quel 60% che sembra, per qualche motivo, io non ho mai studiato nei miei 20 anni di studi economici in America e dappertutto, come si sia divenuti a quello, sì. Come si sia arrivati a quel 60%. Detto questo, la Spagna ha un debito pubblico del 60% del PIL e ha uno spread mostruoso. Ora siamo tutti a dire quanto sono bravi gli spagnoli, hanno uno spread del 350 punti base, molto meglio del nostro, come facciamo ad arrivare a quello spread? Non esiste. Un'unione monetaria europea deve avere per definizione degli spread attorno allo zero. Se la Spagna, la Francia, l'Austria hanno degli spread alti, vuol dire che i mercati hanno smesso di credere nell'area dell'euro. Quindi il problema va risolto a livello europeo. A livello europeo arrivano dei segnali, sono dei segnali chiarissimi, sono dei segnali che la crisi si risolve con politiche di austerità e di deflazione. Benissimo, facciamo un punto e vengono ovviamente dal cancelliere Merkel. Ma noi già sappiamo quali sono gli impatti in questo momento di questo tipo di manovre. Perché? Perché ce l'ha detto lo stesso Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale è uscito circa 2 settimane fa con il suo 5º rapporto sullo stato dell'economia greca. Il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione Europea avevano chiesto alla Grecia di fare una manovra di lacrime e sangue. Cosa sta succedendo in Grecia in questo momento? due cose molto importanti. E il Fondo Monetario Internazionale ha detto: abbiamo sbagliato tutto. Lo ha detto nel suo linguaggio tecnico, ovviamente è pieno di sé il Fondo Monetario Internazionale, quindi non lo può dire in maniera chiarissima, ma se uno si legge il rapporto fa impressione. La Grecia si è avvitata in una crisi recessiva così grossa che sa cosa è successo? Sono successe due cose. Il rapporto debito pubblico PIL con tutta la manovra lacrime e sangue sta schizzando verso l'alto, non verso il basso. Seconda cosa, il Fondo Monetario Internazionale dice che non riusciamo a far passare nemmeno una riforma. E voglio vedere che non riesce a far passare nemmeno una riforma. Le riforme si fa, che sono una cosa importantissima, si fanno quando ci sono le condizioni per farle. Lei se l'immagina di dire a un tassista durante una recessione: sai che c'è, tu c'hai questa bella licenza che ti sei accumulato nel tempo, che vale un sacco di soldi, ora il valore l'annullo. No, le riforme comportano ovviamente delle redistribuzioni di reddito e bisogna sempre, si sa, per compensare i perdenti. Quindi quando è che si possono compensare i perdenti? Certamente non quando si sta in una recessione e non abbiamo le risorse per farlo. Il che vuol dire, torno al suo punto importante, che noi dobbiamo concentrarci sulla crescita potenziale. Le dico: attenzione, in una recessione bisogna concentrarsi sulla crescita ciclica, perché senza concentrarsi sulla crescita ciclica la crescita potenziale si avvita. Le faccio un solo esempio. Nelle recessioni c'è questa cosa terribile chiamata disoccupazione. Se la recessione dura un po' troppo, quella disoccupazione di quelle persone che perdono il lavoro diventa permanente. Sa che vuol dire diventa permanente? Che la gente si deprime, resta a casa, si suicida. Sa cosa vuol dire per la crescita potenziale? Che noi perdiamo persone che possono lavorare. Quindi il problema è ciclico, soprattutto in Italia. Le famiglie non domandano, lo abbiamo visto. Le imprese non domandano alle altre imprese perché non fanno investimenti, e le banche non gli prestano perché le imprese non vogliono fare investimenti. C'è una sola cosa da fare in questa situazione, lo ha detto Keynes 100 anni fa. Per fortuna Keynes noi lo dobbiamo applicare una volta ogni 100 anni, perché le recessioni sono una cosa rarissima. Io in tutta la mia vita sono stato un anti-keynesiano, perché ho sempre detto: Keynes no, Keynes vuol dire troppo governo, lasciate stare il governo, lasciatelo fuori, il settore privato deve trovare la forza di agire da solo. Ma nelle recessioni, quando il settore privato si tira indietro, deve entrare la mano pubblica. E qui chiudo, così lei mi può sparare per l'eresia che sto per dire: abbiamo bisogno in questo momento non di meno spesa pubblica, abbiamo bisogno di molta, ma molto di più spesa pubblica, ma altro che project financing, che non parte in Italia, ci metterà 2 o 3 anni a partire. Io sono anni che mi batto per una riforma della legge del project financing che non funziona in Italia, e che comunque rappresenterà cosa? 1, 2, 3 miliardi di euro? No, lei deve fare un mega piano per rifare cosa? Per rifare tutto quello che in questo momento, tra l'altro, sta mettendo in crisi la produttività delle imprese, le autostrade, il dissesto idrogeologico, le scuole che cascano a pezzi, coi muri che cascano a pezzi, gli ospedali che fanno schifo. Tutto questo poi vuol dire minore produttività. Lei deve rifare come un calzino, e c'è l'occasione, perché la recessione è una fantastica occasione per mettere mano a un aumento della spesa pubblica. La Spagna perché ha uno spread più basso dell'Italia? Perché quando Rajoy è andato a parlare, io vi ricordo, lo spread con Monti, Rajoy era 22 punti base, erano praticamente uguali. Dopo il discorso di Rajoy lo spread è salito a 150, perché? Perché i mercati hanno creduto, almeno per un po', gli hanno dato un po' fiducia a Rajoy. Che discorso ha fatto Rajoy? Rajoy non ha detto tagliamo la spesa, ha detto una cosa fondamentale, ha detto riqualifichiamola la spesa. Ha ragionissimo Colillo quando dice la spending review, ma io vorrei ricordare che in qualsiasi paese civile del mondo il Monti di turno ha davanti a sé sul cruscotto, sul suo computer, i dati che gli dicono esattamente chi spende cosa, quanto, a che prezzo in tempo reale. La nostra autorità dei contratti pubblici riceve con ritardo di 4 anni i dati sulla spesa per acquisto di beni e servizi, che rappresenta il 13% del prodotto interno lordo, cioè il 25% della spesa totale, che non è mai stata menzionata da Monti nella fase 1 né sarà menzionata nella fase 2. Lei si rende conto cosa vuol dire ridurre quella spesa, come dicono tantissimi studiosi si possa fare se si individuano gli sprechi, del 2% di PIL? Vuol dire che lei quel 2% di PIL, senza fare più debito, lo prende e ci fa le infrastrutture, ci fa le scuole, ci fa gli ospedali, ci fa Pompei, ci ricostruisce il Colosseo, c'è un mondo che aspetta di essere ricostruito nella pubblica amministrazione italiana. Allora, la devo fermare perché c'è la pubblicità, la devo fermare perché c'è la pubblicità, le ho dato già minuti oltre per non interrompere il ragionamento. Torniamo poi con le obiezioni e con Polillo a questa richiesta. Abbiamo chiamato apposta il professor Piga, la sua tesi è più spesa pubblica. Eccoci qua, il problema, professor Piga, è che noi viviamo in un paese in cui la politica, Keynes lo segue sempre, non lo segue appunto di fronte alle grandi recessioni, quindi la spesa che lei propone si aggiungerebbe a quella che già c'è, perché quando, come giustamente ha detto lei, la spesa per beni e consumi intermedi della pubblica amministrazione, cioè le cosiddette forniture, e su quelle forniture che sono 147 miliardi, più la metà è quelle sanitarie, è una cifra aumentata del 60% nei 5 anni pre-crisi, la risposta che ottieni dagli assessori regionali della sanità quando gli fai notare questa roba in carica in quegli anni è esattamente quella che ha ricordato Polillo. Gli dice: se ti sottopongo al programma coatto cui devi devi in ogni caso tornare indietro, visto che in quei 5 anni l'Italia non è stata colpita da pandemie di peste, TBC eccetera eccetera, e quindi aumenti ingiustificati del 60%, che cosa esprimono? Esprimono accordi di potere tra pezzi di politica, pezzi di pubblica amministrazione e nicchie di imprese che evidentemente vivono al riparo dei prezzi regolati dalla politica, quindi come vedete io Radio di Confindustria sì o no, non è che mi nascondo dietro un dito e dico che è solo cattiva la politica e le clientele, è evidente che i prezzi ai fornitori sono garantiti con quell'aumento, in maniera che si faccia affari da due parti, per così dire. Però la risposta degli assessori a quel punto è quella ricordata da Polillo: bene, ci state tagliando la sanità, allora a quel punto diremo ai cittadini che gli si vuole buttare per strada senza il sostegno di quella mano pubblica per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che noi siamo i primi al mondo, cattivi politici di Roma ci volete tagliare, eccetera eccetera eccetera. Cioè, una macchina che inerzialmente ha solo fatto inseguire dalle tasse la spesa pubblica che saliva, professor Piga, come può a questo punto dire ok, ci dimentichiamo di tutto questo substrato e in più otteniamo il consenso all'Europa a spendere di più, perché altrimenti noi le infrastrutture e il resto eccetera non le avremo, perché è chiaro che il project finance può essere una rispostina rispetto su quello, tra addetti ai lavori non si può che darle ragione, ma come facciamo a farci dare l'ok su quello? Guardi, che hanno ragionissimo i politici locali a dire non t'azzardare a toccarmi la spesa quando gli proponi dei tagli lineari, perché i tagli lineari quello che fanno è tagliare anche tantissimo alle amministrazioni buone che hanno speso bene. Se tu non hai i dati su chi spreca male, è proprio meglio non tagliare. Secondo, questa visione che noi abbiamo della spesa pubblica come piena di corruzione, ci sono tantissimi studi scientifici, ma pubblicati sulle migliori riviste scientifiche sull'Italia, che dicono chiaramente che il problema italiano è degli sprechi, è uno, enorme, ci sono enormi sprechi, due, l'83% degli sprechi non è dovuto a corruzione, ma è dovuto a incompetenza, che è una bellissima notizia perché sull'incompetenza si può lavorare molto più facilmente che la corruzione. Terzo, ci sono tantissimi paesi che vivono bene con livelli di spesa pubblica molto più alti, no? Il cosiddetto modello scandinavo, ah no, ma noi non possiamo vivere che non siamo come gli scandinavi. Allora qual è il discorso? Se noi non sappiamo far bene una cosa, la chiudiamo. Lei ha mai visto un'impresa che ha dei problemi coi costi e che dice, beh, io ho dei problemi coi costi, non li so gestire bene, chiudo e vado in vacanza? No, un'azienda che si rispetta, se ha dei problemi col controllo dei costi, che si mette a fare? Non rinuncia alla sua missione, continua a vendere e impara a gestire meglio i suoi costi. La questione è uguale per la pubblica amministrazione, non la puoi buttare. Cosa fai? Butti il bambino con l'acqua sporca? Le società moderne si reggono, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, si reggono su una presenza dello Stato anche in termini di acquisti di beni e servizi importantissima. Però quindi mi sta citando tutti i paesi, professori, che sono stati capaci, i primi due sono stati, uno capace di un track record storico dove la spesa e tasse sono infinitamente più basse nostre da sempre, la seconda, la Gran Bretagna, quando è andato fuori fase è stata capace di correzioni bestiali in unità di tempo molto ristrette, la Germania è stata capace nei 5 anni pre-crisi di cambiare lo status sia della parte pubblica con 6 punti in meno di spesa pubblica e tasse in equilibrio a 5.8 punti di PIL di spesa pubblica in la nostra attualmente, e dall'altra di fare produttività in soli 5 anni rivoltando il paese come un calzino, cioè tutti i paesi danno più ragione a chi diffida oramai di una spesa pubblica così elevata. Ma non bisogna, ma è una follia diffidare, è anche una chiamata all'inazione diffidare. Chi chiama a dire non lavoriamo per migliorare la spesa pubblica probabilmente ha tutto l'interesse a che questo sistema continui a essere così com'è. No, Si fa perché l'hanno fatto i tedeschi, l'hanno fatto gli inglesi che negli anni 70, prima che arrivasse la Thatcher, avevano un'università che faceva più schifo della nostra. L'hanno rivoltata come un calzino, perché se gli inglesi ce la fanno, non possiamo farlo noi? No, ma non è... Siamo una delle più grandi civiltà che esiste al mondo. Ma sono, professor Pica, io su questo sono d'accordo. Il problema è adesso, nella condizione nella quale ci... Ora, ecco. È ora il momento. Ecco, però anche la spending review ha i suoi tempi, purtroppo, quella di cui il governo Monti giustamente si è impegnato. Mentre la risposta che lei propone, e dei tantissimi firmatari, perché sono decine e decine gli economisti italiani che hanno firmato i cittadini. Per fortuna, certo. Non solo professori. No, per carità, non sto criticando, sto dicendo, nel breve, adesso, secondo lei, come credibilmente l'Europa ci potrebbe dire d'accordo, vi diamo una clausola sospensiva? Cioè, bisognerebbe costruire una, in realtà, da quello che capisco, un'alleanza di paesi che tutti corrono il rischio di seguire la Grecia nell'avvitamento. Bravissimo. E su questo, al tavolo, a quel tavolo tecnico, in realtà riaprire un tavolo politico che dice: cari tedeschi, o facciamo così, oppure riapriamo così tanto la forbice delle parti correnti, cioè peggioriamo tutti la nostra condizione, che voi vi illudete alla fine, perché avete il record attuale delle parti correnti, hanno battuto la Cina nell'ultimo trimestre, però è un record effimero perché andrete a sbattere il muso. Un po' questo. Concordo pienamente, bisogna chiedere alla Merkel di avere il coraggio di quello che ha fatto, molto più impegnativo, 20 anni fa il suo padre politico Helmut Kohl, quando salvò, contro tutto il parere della Bundesbank, poi si dimise il presidente della Bundesbank, salvò senza ascoltare nulla, perché vedeva il progetto di lungo periodo, i suoi fratelli della Germania dell'Est. È vero, non siamo i fratelli, siamo i cugini di quarto grado, ma noi l'Europa l'abbiamo costruita per far diventare, per i miei figli o i miei nipoti, i fratelli dei figli e dei nipoti dei tedeschi attuali. Quindi se la Merkel dice: bene, io ti vengo in aiuto una volta, ma anche sulle sue colpe un po' la Germania, che è stata molto a pensare a se stessa, giustamente, dice lei, però la Germania dice: adesso vengo a aiutarti, ma tu sul tavolo mi metti tutte le riforme possibili, ma l'espansione di domanda la facciamo tutti insieme, e ha ragione lei a dire che se la fa solo l'Italia serve a poco, l'espansione fiscale la facciamo tutti insieme, la Germania la fa in deficit, tutti gli altri paesi la fanno senza deficit, l'IVA italiana non si usa per pagare il debito dei debitori esteri, ma si usa l'IVA italiana 2% di PIL per fare maggiore spesa pubblica, non in deficit. Tutti insieme riportiamo la barca europea a un livello che si possono fare le riforme. Allora, adesso così è più chiaro, secondo me. Certo, un programma da tagliare le vene ai polsi, perché i tedeschi non vogliono sentire parlare di Eurobond neanche per le infrastrutture pubbliche. Che ne pensa a questo punto non tanto il sottosegretario Polillo, quanto l'economista Polillo, che da decenni è appassionato di economia pubblica e di effetti sulle crescite? Io volevo, insomma, c'è molta carne al fuoco, quindi rispondere alle obiezioni, che alcune delle quali sono del tutto condivisibili, il professor Pica, è una cosa abbastanza complicata. Io vorrei fare innanzitutto una lode alla Guardia della Finanza, non solo per la lotta che sta facendo contro l'evasione fiscale, ma perché sta spostando progressivamente il baricentro delle sue analisi, non si occupa più soltanto di entrate, ma cerca di verificare in che modo gli enti locali spendono i loro bilanci, e hanno fatto una mappatura ancora parziale e provvisoria, però è interessante. Viene fuori per esempio che in una grande regione italiana e in una grande città italiana, non cito nella regione, nella città, le partecipazioni degli enti locali sono a circa 400 società. Voi moltiplicate questo numero, sono partecipazioni che vanno minime e massime, insomma, si va da un semplice contributo a un controllo assoluto del 100%. Moltiplicate questo numero per il numero delle regioni e per il numero delle grandi città italiane e vi rendete conto quant'è la massa di spesa che è sostanzialmente finalizzata a motivi di consenso elettorale, proprio, che noi utilizziamo per questa politica keynesiana un po' all'italiana che abbiamo fatto fino adesso. Quando noi avremo questa mappatura completa, avremo un dato conoscitivo sul mercato proprio che sarà impressionante. Aspetti, adesso la fermo un secondo perché abbiamo il minuto sulla circolazione stradale e poi torniamo da lei. Mentre riparte come al solito l'ipnosi ipnotica dei Doors, avevo interrotto Polillo che dopo l'inno, l'elogio, non l'inno, alla Guardia di Finanza che sposta il tiro, cosa aggiunge? Allora, io distinguerei due aspetti del discorso che ha fatto Gustavo Piglia, Europa e Italia. In Europa che cosa, qual è la situazione? Noi abbiamo che la bilancia dei pagamenti europea è più o meno in equilibrio, quindi questo significa che la politica monetaria finora sviluppata è coerente con i dati, con le macro grandezze economiche. Però in Europa c'è una grande asimmetria, perché il saldo a zero, il bilancio positivo delle partite correnti, della bilancia dei pagamenti, deriva da un forte surplus da parte dei tedeschi e da un forte deficit di tutti gli altri paesi. Si verifica in definitiva quello che all'interno del contesto dell'Eurozona, quello che la stessa cosa che si verifica nel rapporto tra gli americani e i cinesi, cioè i tedeschi con il loro surplus nella bilancia dei pagamenti finanziano i paesi in deficit, che sono tutti i paesi dell'Eurozona, compresa la Francia. Questa è l'asimmetria che impedisce di avere oggi una politica comune, perché esatto, dal punto di vista teorico la soluzione sarebbe semplice: occorre che i tedeschi sviluppino la loro domanda interna riducendo l'attivo della bilancia dei pagamenti, consentendo ai paesi in deficit come l'Italia, la Spagna, la Grecia e la Francia di esportare di più nei confronti della Germania stessa. Cioè la Germania dovrebbe fare la locomotiva dell'Europa, come gli Stati Uniti hanno fatto la locomotiva di tutto l'Occidente negli anni passati facendosi finanziare dai cinesi. Questa dovrebbe essere una delle ipotesi che i tedeschi non vogliono attuare. Allora, se non vogliono attuare questa politica perché hanno un problema di redditività delle loro imprese, come sapete i dati sulla disoccupazione tedesca sono estremamente positivi, hanno un livello più basso di disoccupazione a livello europeo, allora l'alternativa rimane quella di creare delle strutture di carattere europee, di governance europee, quindi gli Eurobond, il Fondo Salva Stati, cioè una banca centrale europea che possa supplire all'impossibilità di sviluppare la domanda interna. Questo è il primo punto. Quindi il nodo, un po' il corno, uno dei corni del dilemma appunto è la politica tedesca. Loro non possono. Kindelberger, quando esaminò la crisi del 1929, disse che la causa della crisi erano nel fatto che gli americani non capivano di essere diventati una potenza egemone e che l'egemonia comportava oneri ed onori. Io spero che i tedeschi prima o poi si convincano che la sopravvivenza dell'euro dipende essenzialmente dalle loro politiche e che loro hanno una convenienza politica al mantenimento dell'euro, perché se dovesse crollare l'Europa loro si troverebbero di nuovo di fronte da soli al gigante russo e non credo che questa sia una prospettiva allettante per lo stesso popolo tedesco. Fermo rimanendo che quando è stata fatta l'unificazione tedesca tutti gli altri paesi hanno dato un fortissimo contributo all'unificazione, perché come ricorderete il cambio tra il marco occidentale e il marco orientale fu one to one, non ci fu svalutazione del marco in quanto tale, del nuovo marco, ma vi fu una stretta creditizia che comportò un rientro di capitali da parte di tutti i paesi nei confronti della Germania che favorì il processo di unificazione. Questo è il contesto europeo. In Italia una politica di sviluppo della domanda pubblica non mi convince. Io sono per una politica dell'offerta, ma non da un punto di vista così teorico astratto. Il potenziale produttivo in Italia si aumenta soltanto con quelle riforme strutturali, a partire dal mercato del lavoro, che è la madre di tutte le riforme, che consenta di accrescere la produttività totale dei fattori. Perché non mi convince? Ma perché noi abbiamo un deficit sia della bilancia commerciale che della bilancia di pagamento. Se noi andiamo come ce l'ha la Francia, come ce l'ha prima Piga citava il caso della Spagna, ma nella Spagna il deficit commerciale è 10% del PIL, in Grecia è l'11-12% del PIL. Se non c'è un aumento della produttività e quindi una ristrutturazione della politica dell'offerta, questo deficit continuerà ad esistere. Se noi facessimo una politica di grande rilancio della domanda pubblica, per esempio, il 40% degli sforzi che noi faremo se ne vanno in importazione. Perché le importazioni sono più competitive, c'è poco da fare. Quindi noi aumentiamo la competitività, torno a dire, agendo sui 1000 fattori che oggi ne frenano lo sviluppo, quindi le cose che dicevi te prima, liberalizzazione, mercato del lavoro e quant'altro, oppure oppure non ne usciamo da questa situazione. Allora, un po' di ascoltatori dice che il dibattito di oggi fatto con Polillo, Piga e anche con le mie parole di troppo eccetera eccetera è troppo teorico. Io non lo so se la politica italiana non vi abbia abituati a parlare un po' poco di queste cose, troppo poco e troppo di cose concrete. Le cose concrete avvengono perché ci sono gli schemi che le tengono insieme, cioè per esempio questo confronto tra il professor Piga che dice guardate che nel breve noi possiamo solo avere effetti, quando lui dice crescita ciclica rispetto all'autopotenziale è quello a medio-lungo periodo, quando lui dice crescita ciclica nel breve gli effetti possono essere solo da più spesa pubblica, è inutile che lo negate, infatti come vedete noi non stiamo negando questo, però diciamo che gli effetti sarebbero più distorsivi. Allora, forse una politica che ci avesse abituato di più a parlare in questi termini piuttosto che solo picchio te, picchio lui, è una politica che avrebbe avuto effetti meno complicati di quelli che abbiamo alle nostre spalle. Cioè una politica che ha passato metà del suo tempo a ricordare senza capire le radici di ognuno, l'identità dei partiti eccetera eccetera, e l'altra metà a capire senza ricordare. Ecco, la vita, l'intelligenza è capire e ricordare insieme. Ecco, non so come dire. Sentiamo rapidissimamente come la pensa Rosa da Viterbo, almeno una telefonata. Rosa da Viterbo. Buongiorno, io volevo dire questo. Intanto faccio i conti della massaia e non faccio i conti dell'economista, certo, perché non sarebbe possibile per me. Io vorrei chiedere due cose. Primo, perché le tasse devono venire prima di eventuali sgravi fiscali o abbattimenti o ricerca dell'evasione? L'evasione a un certo punto è una questione di sopravvivenza, perché se a me mi mettono una pensione più bassa, mi aumentano le tasse sul conto corrente che è già misero, mi fanno un insieme di provvedimenti per cui quando io vado a comprare un oggetto e mi dicono la vuole la fattura, come prima cosa dico no grazie, io alla fattura ci rinuncio. Quindi dare un incentivo sulla l'IVA che uno pagherebbe con un rimborso dell'IVA, mica dico tanto, l'1% in più di quello che si paga, forse tutti saremmo spronati a dire va bene, mi dia la fattura perché lei evade e io invece un 1% lo recupero sulla spesa fatta. E le spese io so che muovono l'economia. Io oggi, pur non essendo cambiato niente, perché la mia pensione è rimasta uguale da quando c'è Monti e tutto rimane nella stessa misura, però la paura è talmente tanta che in qualche modo io venga ad avere meno potere da... Chiedo scusa. No, su di lei le aspettative sono negative e quindi tende ad avere ovviamente un comportamento, si vede nei consumi generali dai primi dati, è esattamente quello che dice. E Rosa, a me non deve convincere me, questo è un discorso molto serio quello che lei fa, cioè l'effetto del giro di vita fiscale è innanzitutto la diminuzione del reddito disponibile, secondo è anche quello di deprimere l'economia, esattamente come dice lei, non è mica solo la massaia, il discorso dell'economista pure il suo, il problema è che in Italia la ragioneria ci dice che se noi iniziamo prima gli aggravi, i saldi di bilancio non li garantiamo, questo è il punto, mentre io negli anni, quando le cose non erano ridotte così, ero tra coloro che dicevano ai ministri in carica guardate che state sbagliando tutto a fare più spesa corrente invece che a tenerla bassa e a tagliare le tasse, noi paghiamo il conto di quell'errore lì che non è stato fatto, e quindi da questo punto di vista lei ha ragione, ma è la ragione un po' di noi che siamo picchiati. Allora, io devo rapidamente concludere, mi solo con Andrea da Como, che è un revisore dei conti che ci aveva chiamato e che era in attesa, ma qui mancano solo 15 secondi alla fine della trasmissione, quindi non mi tocca che ringraziare il professor Gustavo Piga da una parte e il professor Gianfranco Polillo dall'altra. Alle 12, per chi è interessato, alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Per il momento lo spread non si era molto schiodato e quindi vediamo un po' come vanno le aste e come va l'annuncio del Presidente del Consiglio. Temo però che non dobbiate aspettarvi chissà che cosa, comunque domani mattina ci ragioneremo insieme. Intanto ora la linea con il generale. Radio 24. Il Natale si sente.